Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 187 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana, tenetevi forte, si parlerà del bosone di Higgs. Cari ascoltatori, il bosone di Higgs, come sapete, è uno dei più grandi misteri della fisica moderna. È per questo, in fondo, che è stato costruito il grande Large Hadron Collider, l'acceleratore di 30 km costruito sotto la superficie di Ginevra. È un mistero della fisica moderna che deve essere ancora rilevato. Insomma, non è chiaro ancora se esista o no il bosone di Higgs. È previsto, ma ancora non è stato trovato. Però, se il bosone di Higgs esistesse davvero, dovrebbe essere rilevabile anche dal punto di vista gravitazionale. E secondo un lavoro pubblicato qualche mese fa sul Physical Review D, dovrebbe indurre anche uno shift spettroscopico. Ne parleremo in questa puntata col dottor Roberto Onofrio del Dipartimento di Fisica Galileo Galilei dell'Università di Padova. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Roberto, come al solito all'interno di questa trasmissione abbiamo 100 parole per cominciare, quindi in 100 parole ti chiedo di riassumere il contenuto di questo paper che poi andremo meglio a spulciare nella seconda parte della trasmissione. A te la parola. Certamente, nell'articolo che ho scritto qualche mese fa cerco di mettere insieme due concetti di massa. Come sappiamo, appunto, la massa in fisica newtoniana esiste la massa inerziale e la massa gravitazionale. Questa seconda è, se vogliamo, l'ente che fa in modo che i colpi si attraggano con la forza gravitazionale. Il primo invece rappresenta l'inerzia al moto, cioè rappresenta, se vogliamo, la pigrizia al muoversi dei corpi. Nel modello standard della fisica delle particelle elementari esiste una particella apposita che dà la massa inerziale a tutte le altre particelle delle quali noi siamo composti, delle quali è composto l'intero universo. Questa particella prende il nome di particella di Higgs, e nel lavoro cerco di unire le due cose, cioè se l'Higgs esiste dovrebbe non solo dare la massa inerziale, quindi attribuire questa capacità di inerzia al movimento dei corpi, ma anche la carica. Quindi in prossimità di sorgenti astrofisiche, per esempio di origine astrofisica con alto contenuto di gravitazione, quindi con grande curvatura dello spazio-tempo, e quindi dovrebbero esistere degli shift, degli spostamenti spettroscopici caratteristici proprio dell'Higgs, dovuti all'Higgs, che potrebbero essere osservati in prossimità di queste sorgenti come buchi neri o stelle a neutroni, oggetti collassati, diciamo, fortemente degeneri. Perfetto Roberto, a questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione vi parleremo un pochino dei misteri della fisica moderna e del perché il bosone di Higgs è un mistero così misterioso, se mi passate il gioco di parole, e poi nella seconda parte della trasmissione cercheremo di capire perché questo bosone di Higgs dovrebbe indurre uno shift spettroscopico. A dopo. Al mio segnale scatenate l'inferno. I've gazed upon what you can't see. E il pezzo che vi state gustando è Big World dei Liquid Kitchen. Intanto benvenuti di nuovo a tutti in questa 187esima puntata di Cacciafotone, dentro la quale ci stiamo occupando del cosiddetto bosone di Higgs, uno dei più grandi misteri della fisica moderna, o meglio ancora la cosiddetta transizione fra energia e materia. Ce ne stiamo occupando col dottor Roberto Onofrio del Dipartimento di Fisica Galileo Galilei dell'Università di Padova, che è autore di un paper pubblicato qualche mese fa sul Physical Review D intitolato Higgs Induced Spectroscopic Shifts Near Strong Gravity Sources. In parole povere, se esistesse davvero il cosiddetto bosone di Higgs, questo bosone dovrebbe essere rilevabile anche attraverso le forti, le intense sorgenti gravitazionali e dovrebbe indurre un cosiddetto shift spettroscopico. Come avrete capito, cari ascoltatori, questa puntata è una puntata piuttosto teorica, quindi cominciamo dall'inizio. Quando parlo di inizio, parlo di T0. Roberto, cosa c'era all'inizio che poi ha generato quella cosiddetta espansione che ha creato l'universo all'interno del quale noi viviamo oggi? La teoria più accreditata in cosmologia, la cosmologia è la parte della fisica teorica, ma non solo teorica, anche osservazionale, che studia le origini dell'universo nel suo insieme. Agli inizi si immagina che esistesse una piccola concentrazione di spazio-tempo, un enorme, tutto l'universo che conosciamo, quindi c'è quella che prende il nome teoria del Big Bang, della grande esplosione, e da questa esplosione poi è nato l'intero universo, all'inizio con un plasma di particelle elementari, fotoni estremamente caldo, ad altissima temperatura di energia, e man mano espandendosi nello spazio-tempo, lo spazio-tempo diciamo si è raffreddato, dando luogo poi a tutte le strutture che osserviamo, all'inizio galassie, massi galassie e così via. Questa teoria appunto è stata discussa per molti anni e ci sono forti evidenze sperimentali come una radiazione fossile, per così dire, che è rimasta dopo questa esplosione, che prende nome radiazione cosmica di fondo, e altre evidenze come le percentuali di elementi pesanti, in particolare il rapporto tra la quantità di elio presente nell'universo e la quantità di idrogeno. E un'altra evidenza di questa espansione è il fatto che se osserviamo galassie sempre più lontane, queste manifestano una velocità di recessione sempre maggiore, cioè la cosiddetta legge di Hubble, che lega appunto lo shift spettroscopico che si osserva dagli atomi delle galassie via via sempre più lontane alla loro distanza. Ebbene, fino a un decennio fa è osservato che c'è una diretta proporzionalità, cioè se osservo una galassia che è a una distanza doppia da noi, questa è una velocità di recessione doppia. Soltanto recentemente si è osservato che in realtà sembra che l'universo non solo è in espansione, ma è in espansione accelerata. Ancora non si sa l'origine di questa accelerazione dell'universo, tra l'altro. Roberto, uno dei più grossi problemi che c'è quando affrontiamo aspetti della fisica teorica interfacciati con la cosmologia è il cosiddetto vuoto quantistico, insomma quel vuoto dal quale si sarebbe generato l'universo e poi il cosiddetto vuoto dal quale poi in qualche modo si genera la materia. Ci vorresti spiegare esattamente che cos'è questo vuoto quantistico? Beh, diciamo, non penso che oltre al passato bisogna utilizzare il presente, nel senso che con le leggi della meccanica quantistica sviluppate a partire dagli anni 20 del secolo scorso, noi sappiamo che c'è una certa virtualità nell'universo, nel senso che è possibile che per brevi istanti di tempo l'energia venga creata dal nulla, appunto dal vuoto. Quindi dobbiamo immaginare questo vuoto come un'entità nella quale si possono produrre continuamente particelle di tutti i tipi, fotoni, elettroni, antiparticelle, protoni, che vivono per un tempo molto piccolo. Naturalmente uno si può chiedere quali sono gli effetti osservabili. Ebbene, esistono diversi effetti in fisica, a iniziare dalla fisica atomica, quindi dalla spettroscopia dei livelli atomici, che possono essere spiegati mediante l'esistenza di questo vuoto quantistico. È una specie di etere nel quale potenzialmente conserva tantissima materia e tantissima energia che può apparire per pochissimo tempo. Un paragone che spesso porto è quello di una banca virtuale, dove uno può chiedere molti euro per pochissimo tempo, diciamo. Questi in genere non darebbero luogo in pratica a effetti osservabili sull'economia di una persona, ma l'analogia è abbastanza simile, cioè è possibile attraverso il vuoto quantistico scambiare e produrre energia per pochissimi istanti di pochissimi istanti, e essenzialmente si pensa che l'universo sia nato da una bolla di questo vuoto quantistico. Senti Roberto, prima ci dicevi che dal vuoto quantistico in qualche modo si crea energia e quindi poi di conseguenza materia. Ma chi o cosa fa questa operazione? Sì, nel modello attualmente più accreditato per descrivere la fisica delle particelle elementari, che prende anch'esso il nome di modello standard, diciamo, è la teoria, lo status quo della fisica delle particelle elementari, le particelle, tutte le particelle elementari che conosciamo, assumono massa inerziale, appunto, mediante una particella che ha delle proprietà un po' speciali, e prende il nome di bosone di Higgs. È una particella che non ha spin, cioè una proprietà intrinseca di momento angolare, e ha una particolarità rispetto a tutte le altre particelle, nel senso che nel vuoto ha un valore medio della sua energia diverso da zero, cioè tutte le altre particelle oscillano, per così dire, con la loro energia intorno allo zero, quindi vengono prodotte e distrutte intorno a un'energia che ha un valore medio nullo. Questa particella invece ha un valore medio diverso da zero, e tutte le altre particelle assumono massa mediante l'interazione con questa particella di Higgs nel modello standard. È evidente che la sua scoperta eventuale nei prossimi anni al CERN o in altri esperimenti è fondamentale per capire l'origine della massa, ossia perché l'elettrone ha la massa che conosciamo, perché quarks anche costituiscono protoni e neutroni, per esempio, quindi gran parte della materia stabile che conosciamo, assumono anch'essi massa attraverso questo fenomeno che coinvolge la particella di Higgs. Roberto, ti ho fatto questa domanda perché poi nel proseguo della trasmissione cercheremo di capire l'importanza del bosone di Higgs nel vostro lavoro e soprattutto che cosa dovrebbe produrre in sorgenti gravitazionalmente pesanti. Ecco, prima tu hai parlato del cosiddetto modello standard. Riusciresti a spiegare un pochino che cos'è questo modello standard, soprattutto perché io me lo sono sempre immaginato come una specie di Tetris, però a quattro pezzi, in cui tre pezzi si incastrano bene, però il quarto tende a non incastrarsi perfettamente. È corretta questa mia immagine oppure no? Sì, nel modello standard propriamente detto della fisica delle particelle elementari, oggi conosciamo e capiamo abbastanza bene tre interazioni. L'interazione forte, che descrive i nuclei, diciamo, l'interazione all'interno dei nuclei. Sappiamo che all'interno dei nuclei atomici esistono protoni e neutroni, a loro volta vari strati della materia, neutroni e protoni, sono costituiti da oggetti che riteniamo essere puntiformi, che prendono il nome di quarks, e questi quarks appunto interagiscono tra loro anzitutto mediante l'interazione forte, e questo li lega insieme in queste sacche, diciamo, che prendono il nome di protoni e neutroni. Quindi stiamo parlando della fisica subnucleare, e quindi costituenti interni al nucleo. E nel modello standard l'interazione tra questi quarks è descritta mediante una interazione che prende il nome interazione di colore. Nel modello standard sono presenti anche due altre interazioni che sono estremamente correlate tra di loro, come sappiamo dagli esperimenti che poi sono stati eseguiti al CERN da Carlo Rubbia e collaboratori nella metà degli anni 80 e poi dalla Large Electron Positron Collider sempre al CERN a partire dagli anni 90, ovvero l'interazione elettromagnetica che conosciamo abbastanza bene, al punto tale che esistono interi settori dell'ingegneria che utilizzano questi giorni questa interazione, e l'interazione cosiddetta debole, cioè se vogliamo un tipo di radioattività nella quale vengono emessi per esempio elettroni e neutrini, e che è stata descritta negli anni 30, a metà degli anni 30, mediante una teoria sviluppata da Enrico Fermi. E nel modello standard non si parla più di interazione elettromagnetica e debole come separate, ma si parla del modello elettrodebole. Quello che rimane fuori questo schema è appunto l'interazione gravitazionale, che paradossalmente da un certo punto di vista è quella più antica, che è stata già studiata in astronomia e poi compresa da Newton, è però anche più sfuggevole a questo schema di unificazione. Dunque, nel modello standard effettivamente manca questo tassello, e molti attribuiscono questa mancanza di compenetrazione tra le altre tre interazioni fondamentali e la gravità al fatto che la gravità ha un'origine molto più geometrica, nel senso che mentre a livello newtoniano, dal punto di vista della gravitazione di Newton, la forza gravitazionale è un'interazione come tutte le altre, nel 1915 con Einstein le cose cambiano. Per Einstein la gravità, la forza gravitazionale non è una cosa, è semplicemente una manifestazione del fatto che lo spazio-tempo è curvo. Quindi in altri termini Einstein riesce a geometrizzare la gravità. Questa geometrizzazione della gravità, da un punto di vista concettuale, crea dei problemi di unificazione con gli altri schemi che vivono invece in uno spazio-tempo già ben definito, non deformabile dalla loro stessa presenza. Questo poi a livello di fisica teorica ha il suo corrispettivo anche nel fatto che è difficile creare una teoria finita dove si fanno delle previsioni che non siano divergenti, cioè dove non compaiono degli infiniti, per la teoria della gravità. Mi riferisco agli sforzi che si fanno da diversi decenni per quantizzare la gravità. In altri termini, sappiamo che l'elettrodinamica, l'elettromagnetismo classico è un'approssimazione, ma che se si includono leggi della meccanica quantistica bisogna parlare di elettrodinamica quantistica, e anche l'interazione forte e debole vengono descritte in ambito di teoria quantistica e quindi teoria di campi quantistici, e riescono a fare previsioni con l'eliminazione di oggetti che tendono a divergere, diciamo, di quantità divergenti nella teoria. Questo processo prende il nome di rinormalizzazione. Ebbene, in gravità quantistica finora non si hanno schemi rinormalizzabili, e questo probabilmente segnala dal punto di vista fondamentale l'esistenza di problemi di compatibilità della gravità. Secondo Feynman, per esempio, la gravità non va quantizzata, e la quantizzazione è una procedura che è nata con l'elettromagnetismo, ma che proprio per la sua natura macroscopica la gravità non necessita la quantizzazione. E probabilmente in altri schemi invece il modello standard, in particolare interazioni forti o elettromagnetiche, dovranno un domani apparire come manifestazioni geometriche, con una geometria dello spazio-tempo magari con molte più dimensioni, quindi universi multidimensionali, e in questo modo si cerca di geometrizzare invece le altre interazioni fondamentali. Non sappiamo al modello quale sarà la strada vincente, come ai tempi di Einstein dobbiamo aspettare che vi siano delle previsioni di fenomeni osservabili in accordo con una di queste due tendenze o altre che possono venire poi in seguito. Roberto, continueremo questa interessantissima chiacchierata dopo una breve pausa. Adesso un piccolo pezzo musicale e poi di nuovo in studio. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. Hey! E bentornati in studio, cari ascoltatori, all'interno di questa puntata in cui ci stiamo occupando del bosone di Higgs e ce ne stiamo occupando in compagnia del dottor Roberto Onofrio del Dipartimento di Fisica Galileo Galilei dell'Università di Padova. Il paper di cui stiamo parlando quest'oggi è stato pubblicato qualche mese fa sul Physical Review D e teorizza uno shift spettroscopico, quindi uno spostamento spettroscopico vicino alle sorgenti gravitazionali molto molto intense. È un argomento un po' complicato. All'interno di questa trasmissione, soprattutto nella prima parte, abbiamo cercato di parlare di modello standard, abbiamo cercato di spiegare che cos'è il bosone di Higgs, ma in questa seconda parte cercheremo espressamente di spiegare questo paper, che è un paper molto teorico, ma è un paper molto molto interessante. Andiamo a pagina 1, Roberto. A pagina 1 c'è una cosiddetta lagrangiana. Ora, ovviamente non voglio che tu mi spieghi esattamente quali sono i termini di questa lagrangiana, ma il nocciolo duro di questa equazione produce una domanda: perché la variazione del campo di Higgs in uno spazio molto molto curvato dovrebbe essere visibile anche dal punto di vista gravitazionale? Proprio perché il campo di Higgs dà massa alle particelle, è il responsabile nel modello standard dell'inerzia dei corpi, di tutte le particelle elementari. E dato che sappiamo già in fisica newtoniana massa gravitazionale, cioè la carica che deve comparire per lo scambio dell'interazione gravitazionale tra particelle, coincide con la massa inerziale, il cosiddetto principio di equivalenza, sappiamo che l'Higgs deve accoppiarsi alla gravità, cioè deve esistere un accoppiamento tra il campo di Higgs e la curvatura dello spazio-tempo. E questo ha come implicazione il fatto che lo spazio-tempo in prossimità del campo di Higgs dovrebbe assumere dei valori di curvatura un pochino diversi, e nello stesso tempo il campo di Higgs è deformato dalla presenza della gravità. Se quindi la particella di Higgs aveva un certo valore di massa e un certo valore di energia nel vuoto in presenza di uno spazio-tempo piatto, cioè quando non c'è materia ed energia intorno, dovrebbe invece essere modificato questo valore dell'energia del vuoto nel campo di Higgs in prossimità di sorgenti dove la gravità si fa sentire seriamente. Però nell'universo sappiamo che esistono oggetti cosiddetti collassati dove la gravità supera di molti ordini di grandezza la gravità sulla Terra. In prossimità di questi oggetti quindi è possibile andare a osservare transizioni spettroscopiche, quindi fotoni emessi con una certa lunghezza d'onda che possono avere una lunghezza d'onda modificata proprio dalla presenza del campo di Higgs in prossimità delle sorgenti. Senti Roberto, vorrei che tu fossi un attimo più chiaro, perché effettivamente ci dovrebbe essere questo shift spettroscopico? Se il valore di aspettazione del campo di Higgs, cioè il valore medio del campo di Higgs nel vuoto, risente della gravità, sarà leggermente diverso in presenza di una forte sorgente di campo gravitazionale rispetto al spazio-tempo piatto, per esempio, o rispetto a un campo gravitazionale molto debole come quello terrestre, per esempio. Quindi, dato che l'Higgs dà massa a tutte le particelle, in particolare all'elettrone, mi dovrei aspettare un valore leggermente diverso della massa dell'elettrone. Ora, la massa dell'elettrone è un parametro fondamentale in tutta la spettroscopia atomica. Le transizioni atomiche che coinvolgono il passaggio di un elettrone da uno stato eccitato a uno stato fondamentale o diversi stati eccitati, e quindi tutta la spettroscopia atomica, è legata alla massa dell'elettrone. Se la massa dell'elettrone è leggermente diversa, le righe spettrali, quali vengono emesse i fotoni corrispondenti a queste transizioni atomiche, hanno una lunghezza d'onda, una frequenza leggermente diversa. In questo senso, quindi, sono gli shift, degli spostamenti di riga spettroscopici. E già sappiamo che ovviamente esistono degli shift spettroscopici in sorgenti astrofisiche dovute ad altre sorgenti, ad altre motivazioni, per esempio, come accennavo prima, al fatto che l'universo è in espansione e quindi c'è quello che prende il nome di redshift, perché questo spostamento nel caso di una sorgente che si allontana da noi è uno spostamento verso più basse frequenze, quindi più grandi lunghezze d'onda, e quindi prende il nome di redshift, spostamento verso il rosso, ma oltre a questo naturalmente ci sono anche redshift di origine gravitazionale e anche redshift dovuti al puro moto locale degli oggetti, cioè l'effetto Doppler che sperimentiamo tutti quando si avvicina per esempio un treno in corsa con la sirena, e sentiamo che il tono è estremamente diverso, è proporzionale alla velocità del treno quando è in avvicinamento o quando è in allontanamento. Questo è un fenomeno che accade anche nelle sorgenti astrofisiche, quindi il problema poi da un punto di vista della sistematica osservazionale è riuscire a distinguere questa particolare sorgente di spostamento che ho studiato in quell'articolo, cioè lo spostamento dovuto eventualmente al campo di Higgs, da tutte queste altre sorgenti di spostamento cosmologico, Doppler e gravitazionale. E quindi, per spiegarlo ancora meglio, che relazione c'è fra il redshift che normalmente si rileva nelle galassie, che peraltro hanno al loro centro di norma un grande buco nero e quindi una grande sorgente gravitazionale, e lo spostamento dovuto al campo di Higgs? Nell'articolo mostro che dovrebbe questo spostamento verso il rosso dovuto, o verso il blu, perché questo dipende poi dal segno dell'accoppiamento in quella lagrangiana di cui parlavi prima. L'elettrone dovrebbe, dato che deriva tutta la sua massa dal campo di Higgs al 100%, dovrebbe dar luogo a uno spostamento della sua massa e quindi un certo spostamento spettroscopico delle righe atomiche. Ora, non tutte le righe spettrali che osserviamo da oggetti astrofisici sono di natura atomica. Sono molte transizioni che derivano dalla spettroscopia molecolare, e in questo caso prevedo che l'effetto sia molto inferiore. Quindi qualche apparente incongruenza osservativa potrebbe essere dovuta allo shift spettroscopico prodotto dal campo di Higgs? Certamente, dato che spendo anche parte del mio tempo all'Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a Cambridge in Massachusetts, sono in contatto con diversi astrofisici cercando di analizzare delle banche di dati di spettroscopia in prossimità di queste sorgenti per poter effettivamente vedere se ci sono delle anomalie interpretabili in quest'ambito. Musica velocemente e poi di nuovo in studio. Grande ciao. Down, I'm lost inside and falling away from you. If I could find a way through this glass that shattered in my brain, I know I've spoken words that made you feel I was always wanting more. I know I've silenced you, made you feel it was never meant to be. Fase finalissima di Cacciafotone, siamo ancora in compagnia col dottor Roberto Onofrio del Dipartimento di Fisica Galileo Galilei dell'Università di Padova, e quindi Roberto ti farò l'ultima domanda, che è la domanda zainetto. Quale delle tante cose vissute all'interno di questa ricerca conserveresti per mettere nel tuo zainetto da ricercatore? Questo legame è forte tra il campo di Higgs e la gravitazione. In effetti adesso sto cercando anche di studiare possibili conseguenze sperimentali in laboratorio del campo di Higgs come garante anche del campo gravitazionale, dell'interazione gravitazionale. Quindi, come sempre, la ricerca è un filo logico che consente di saltare poi di un argomento nell'altro in modo coerente. E quindi da questo punto di vista quell'articolo è alla base di una direzione di ricerca che sto perseguendo, oltre appunto alle informazioni che si possono dedurre in ambito astrofisico mediante l'analisi di banche dati, come ho menzionato precedentemente. E allora, Roberto, con questa tua risposta si conclude questa 187esima puntata di Cacciafotone. L'appuntamento è, come al solito, la settimana prossima, e l'augurio è il classico: buona scienza a tutti. E con chi stai parlando? Dici a me?